questo mondo. Questa è una preghiera che viene dal profondo. Mille poi saranno i sorrisi miei e tuoi. Sembrerà di accarezzare il cielo se lo vuoi. Nai, nai, nai. Provi stare nel cassetto delle fotografie per cercare nel passato nuove armonie e preferire dopo qualche istante un caffè. Sarebbe ora di cambiare le lenzuola. Sarebbe ora di cambiare le lenzuola.